Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, stasera parliamo di uno degli oggetti che più ci piace e che è al centro di questa trasmissione, anzi senza il quale questa trasmissione non esisterebbe, cioè il libro. E vi presento un volume che si intitola appunto Libro, l'autore Gian Arturo Ferrari, che di libri ne capisce molto perché è stato presidente del Centro per il Libro e la Lettura, oltre che capo dei libri della Mondadori. Il libro è pubblicato da Bollati Boringhieri, 216 pagine, 10 euro. Ho detto non a caso oggetto libro, perché come dice Ferrari all'inizio di questo libro, l'oggetto libro sembrava ormai da secoli stabilizzato, compiuto, insostituibile, un oggetto perfetto, quasi come il cucchiaio che a nessuno viene in mente di modificare, e quindi insomma un oggetto eterno. E invece stiamo assistendo a grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel giro di pochissimi anni e che stanno radicalmente modificando le aspettative anche imprenditoriali e finanziarie sul libro. Scrive infatti Ferrari che 20 anni fa l'orizzonte del libro, il futuro del libro, era tranquillamente pensabile nella modalità prediletta dal pensiero occidentale da oltre mezzo millennio. Oggi è tutto cambiato, o meglio sta tutto cambiando. In fondo grandi traumi, enormi traumi non ce ne sono stati ancora, però dice Ferrari c'è come un rumore di fondo, una scossa tellurica o peggio un'attesa di un grande terremoto che potrebbe avvenire nei prossimi anni alla luce appunto delle nuove tecnologie. Ferrari parla di un rombo lontano, di un senso di movimento tellurico laggiù nel profondo. Un brivido di ansia percorre i fragili nervi della comunità dei libri. Quando arriverà, si arriverà la grande scossa? E per rispondere a questa domanda, Ferrari divide il suo libro in tre parti, anzi in tre libri, dedicati appunto il primo al libro manoscritto, il secondo al libro stampato e il terzo al libro elettronico. E su questi tre libri adesso facciamo qualche domanda all'autore. Buonasera Gian Arturo Ferrari. Buonasera. Gian Arturo Ferrari, lei parla nel suo libro dei tre tipi di libri che si sono sviluppati lungo il corso della civiltà, e in particolare all'inizio si parla del libro antico, si parla della Grecia. Qui lei scrive che i greci hanno scoperto il libro lungo, la lettura lunga che dà ritmo alla vita, come lei scrive. Che cosa rappresenta nella storia del libro questa prima intuizione dei greci? Beh, rappresenta il fatto che prima quello che potremmo chiamare prelibri o libri originari erano semplicemente degli strumenti di registrazione sostanzialmente. Invece con le serie di innovazioni che vengono fatte in Grecia, il libro diventa una modalità espressiva e soprattutto una forma. E questa forma è la vera più importante eredità della prima forma di libro, che è il libro manoscritto. Non è tanto importante, è molto importante, ma non è assolutamente importante il materiale su cui i libri sono scritti. La cosa fondamentale per un libro è l'idea che ci sia una forma nella quale esprimere, coordinare e appunto dare forma alla fantasia, al pensiero, alla ricerca, alle intuizioni, a tutto. Questa è la vera eredità che ci hanno lasciato loro, e questa forma è sopravvissuta fino ad oggi. Cioè, fino ad oggi, in generale, tutte le cose importanti che l'umanità ha pensato e ha creato, dal punto di vista naturalmente non delle arti figurative, ma del pensiero e del pensiero linguistico, per così dire, si sono trasformate in libri. Fino ad oggi i libri sono il veicolo fondamentale della produzione intellettuale dell'umanità. E proprio in questa fase nascono quindi due figure che ci accompagneranno fino ai giorni nostri, cioè l'autore e il lettore, lei dice. Sì, certo. Che sono entrambe figure non così semplici. Bisogna pensare che il mondo antico, fino a un certo punto, diciamo così, istituzionalmente, ma poi anche praticamente per quasi tutta la sua durata, è un mondo di cultura orale, non scritta, è un mondo di oralità. E quindi il lettore, il fatto che esistano dei lettori non è una cosa così automatica come non siamo portati a pensare. Il primo lettore della storia fu probabilmente Aristotele, il quale preferiva leggere i libri piuttosto che stare a disputare con i suoi colleghi, discepoli come lui di Platone. Mentre invece Platone e questi altri ritenevano che solo nel contatto diretto, nella parola parlata, nel guardare in faccia quello con cui si parla, c'era il vero incremento di conoscenza. Invece Aristotele prende una strada completamente diversa e diventa il primo lettore silenzioso e solitario della storia dell'umanità. Invece con il libro stampa nascono le altre due figure, quella del libraio e quella dell'editore. Eh sì, prima, diciamo così, nasce naturalmente quella del libraio. La stampa è una cosa molto più misteriosa e complicata di quanto non siamo portati a pensare. È un passaggio proprio di mezzo. Quelli che inventano la stampa non sono il popolo del libro, la gente del libro. Sono gente del metallo, delle arti del metallo, sono completamente diversi. E quindi questo sbalza il libro fuori dal suo alveo tradizionale e crea appunto queste due nuove figure. Il mercante di libri, il commerciante di libri, dal quale nasce, per così dire, la figura invece fondamentale, appunto come diceva lei, del libro stampa, cioè l'editore. Mentre prima il libro è una sorta di prolungamento dell'autore, l'autore è in sostanza la figura completamente egemone dell'intero processo, qui la figura egemone diventa invece quella dell'editore. È più importante, per così dire, l'editore dell'autore. Per estremizzando si può dire che l'editore è l'autore degli autori e quindi è più importante di tutti gli altri. Questa figura viene inventata sostanzialmente in Italia e particolarmente a Venezia. In questi primi anni della stampa il successo di questo prodotto industriale va di pari passo con l'espandersi della riforma religiosa. Lei però rovescia il nesso fra stampa e riforma, in che senso? Nel senso che normalmente si dice che la stampa è stato uno dei mezzi fondamentali usati dalla riforma nella sua diffusione. Si può anche dire l'inverso, cioè che la riforma è stato invece il mezzo fondamentale che ha consentito l'affermazione della stampa. Fatto sta che le due cose sono congiunte e strettamente connesse. Con l'insieme stampa-riforma si crea una specie di nesso attraverso il quale, insomma, il mondo dei libri stampati e il mondo della lettura dei libri stampati è prevalentemente protestante. Questo per motivi teologici. Siccome nella teologia riformata l'unico modo che gli uomini hanno per sapere cosa Dio vuole da loro è leggere il libro che Dio ha scritto, vale a dire la Bibbia, e leggerlo loro direttamente, senza l'intermediazione di un clero che glielo spiega e che gli dice qual è il suo vero contenuto, come succede per i cattolici, la lettura diventa un dovere, ma un dovere non esterno, un dovere profondo, spirituale. È la via della salvezza concreta degli uomini. Questo è il motivo per cui la diffusione non solo della lettura della Bibbia, ma poi in generale della lettura, avviene in questo modo. Veniamo all'oggi. Lei a un certo punto segnala una differenza, una distinzione molto forte che domina la produzione editoriale di oggi, cioè fra quella tra i libri che servono e i libri che non servono. Che cosa rappresenta questa distinzione? Beh, sono due modalità proprio completamente diverse. I libri che servono sono i libri utili e vanno naturalmente dai libri scolastici, da quelli dai primi libri scolastici, poi su fino ai libri professionali, ai libri scientifici e a tutta la produzione che è orientata a uno scopo pratico. I libri invece che non servono sono i libri di evasione, per così dire, quelli dell'ozium, quelli che si pensa che debbano riempire la nostra vita personale, interiore, eccetera. Noi in Italia abbiamo un grave ritardo nella prima categoria di libri, mentre invece non siamo messi così male, come usualmente si dice, nella seconda categoria di libri. Naturalmente, siccome la prima categoria di libri, quella dei libri utili, corrisponde a una necessità obiettiva, il business, cioè l'editoria legato ai libri utili, è un business di per sé prospero e sicuro, mentre invece l'altro è aleatorio e sottoposto soprattutto alla concorrenza di tutti gli altri media che intrattengono più e meglio della lettura la gente comune. Più e meglio per la semplice ragione che la lettura è un'attività, mentre invece guardare un film o guardare la televisione o anche ascoltare la musica sono una passività, cioè il ruolo dell'ascoltatore o del visore, per così dire, è passivo, mentre invece nella lettura è una cosa che bisogna fare ed è una cosa faticosa, ed è una cosa difficile, ed è una cosa complicata. e quindi è un esercizio cui non tutti sono disposti a sottomettersi. Il capitolo sul Libro alla Stampa si conclude con la descrizione di alcune tensioni che si stanno manifestando sul mercato editoriale. La prima di questa tensione è quella fra Dio e Mammona. Questa tensione richiama quello che sta succedendo in Francia, mi pare, dove i librai, almeno alcuni librai, sono sdegnati dal vendere i libri di Madame Triveller, l'ex compagna del presidente Hollande. Anche lì hanno protestato, però, perché in realtà la tiratura era troppo bassa e loro non gliel'hanno dato. Bisogna sempre, è proprio questo è un caso, lei dice bene, è un caso tipico di congiunzione tra Dio e Mammona, cioè tutte le volte che si parla di libri si parla di due piani in generale completamente diversi, e quelli che parlano in generale si collocano su uno solo di questi due piani. I due piani sono: uno, quello del valore culturale, quello del valore effettivo del libro, cioè Dio, e l'altro il valore commerciale, cioè Mammona. I libri, però, il bello dei libri è che sono un ibrido, sono precisamente un ibrido di queste due cose, di questi due livelli di realtà, che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro, anzi si oppongono l'uno con l'altro, e questo crea per l'appunto una tensione, un campo di tensioni dentro i quali oscilla la vita del libro. Io penso che questo sia il bello dei libri, sia la loro caratteristica migliore, perché sono veri, perché sono reali e appartengono al nostro mondo. Il libro tra Dio e Mammona è una invenzione tipicamente borghese, della civiltà borghese, proprio per questa sua duplicità intrinseca. E questo forse gli assicurerà un futuro, perché lei non è per niente pessimista sulle sorti del libro. Il futuro, le previsioni, come dico anche appunto nel libro, hanno la caratteristica di essere quasi tutte sbagliate, e quindi io in generale cerco di astenermene, perché abbiamo visto tutti noi una tale quantità di previsioni date per certissime e sicure che poi non si sono verificate, che è meglio appunto starne alla larga. Però badando ai fatti, i fatti sono che certamente vi sono grandissime difficoltà oggi sul mercato dei libri, però per esempio queste difficoltà non sono uniformemente distribuite in tutti i paesi, noi ne abbiamo più di altri paesi, però sta di fatto che io non vedo ancora un succedaneo del libro, cioè vedo forme di comunicazione molto diffuse, le forme di comunicazione con i nuovi mezzi digitali elettronici diffusissime, pervadenti, molto aggressive. Però non vedo che da tutta questa marea di parole scritte, io penso che non si sia mai scritto tanto nella storia dell'umanità quanto si scrive oggi, certo su telefonini, apparecchi eccetera, però si scrive, insomma la comunicazione scritta ha stravinto, però in questa marea di comunicazione scritta non mi pare che sia emersa appunto una forma che la tiene insieme competitiva con il libro. Se oggi uno deve dire qualcosa di interessante, di rilevante, cosa fa? Scrive un libro. Questo è quello che succede tuttora nel mondo. E questo è il motivo del mio fondamentale ottimismo. Dopodiché, se poi l'evoluzione della storia farà sì che da tutta la marea della comunicazione scritta digitale emerga una nuova forma, beh, staremo a vedere. Staranno, per meglio dire, a vedere e come sarà fatta e che cosa succederà. Ma per adesso, non solo per ragioni estrinseche, voglio dire economiche, commerciali e così via, ma tornando alla distinzione tra Dio e Mammona, non solo per ragioni di Mammona, ma per ragioni di Dio, per così dire, dell'anima, della cultura, del contenuto, a me pare che il libro sia difficilmente superabile. Comunque allo stato dei fatti non è superato. Noi ci contiamo. Grazie a Gian Arturo Ferrari, autore del libro. Grazie a lei. Buona serata. Arrivederci, buona serata a lei. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. In questi giorni compiono 80 anni cinque personaggi mitici, quattro autentici mostri sacri. Cominciamo dal compleanno di ieri. Io non ho rimpianti. Non ho rimpianti, nessuno. Ci ho voluto perdere a capo. Avere la più folle delle felicità. E ci risiedo, ma fammi parlare. È tutta colpa mia. Questa era Sophia Loren, che appunto ieri ha festeggiato 80 anni, e di lei esce Voce Umana, un film di Edoardo Ponti, del quale avete sentito alcune battute, che si ispira a La Voix Humaine di Jean Cocteau. Lo troviamo in un cofanetto di Rizzoli col DVD e un libro curato da Maurizio Porro. Il libro ha 86 pagine, il tutto costa 15 euro. E nell'introduzione al libro troviamo un'intervista di Porro alla Loren, nella quale si parla proprio di questa impresa, di questo film, un film breve tratto da un monologo di Cocteau che era stato già trasformato in un film di cui era stata protagonista la Magnani. È un film e un'opera di Cocteau che la Loren definisce in questo modo: è la storia bella e drammatica di una donna che arriva a una certa età e si sente sola, perde l'uomo della sua vita, si sente ed è finita. E Sophia Loren firma la propria biografia dal titolo quasi obbligato: Ieri, oggi, domani, la mia vita, è pubblicato da Rizzoli, 332 pagine, 19 euro. Si parte dai primi anni a Pozzuoli, dove Sophia Loren vive la giovinezza che ella definisce nascosta dietro un velo sottile ma tenace di timidezza, una giovinezza segnata anche, come scrive nel libro, dalla fame. E poi naturalmente abbiamo i primi successi fino alla fama planetaria. E quindi il libro ci offre non soltanto uno spaccato della vita della Loren, ma soprattutto direi una cronaca della storia del cinema e dello spettacolo di questi ultimi 50-60 anni. Si parla anche qui nel libro della vicenda che forse ha segnato di più la vita della Loren, cioè l'arresto per una presunta evasione fiscale che avvenne nel 1982 e che la condusse in carcere per vari giorni. Un'esperienza, tra l'altro, che qui nel libro le ispira alcune riflessioni sulla libertà, che per la Loren non sta tanto nel fare quello che si vuole, quanto nel poter condividere con gli altri le proprie ragioni. A rileggerla oggi, aggiunge, la mia sofferenza di allora era provocata dal sentimento di abbandono, di solitudine, di mancato riconoscimento che mi era piovuto addosso all'improvviso. E infine, sempre sulla Loren, segnalo un libro pubblicato da Armando di Carlo Riccardi, che è stato uno dei grandi fotografi della dolce vita italiana e romana in particolare. Il libro è intitolato appunto a Sophia Loren, ne troviamo qui 40 ritratti dell'attrice, 80 pagine, 9 euro. Oggi 80 anni li compie Leonard Cohen, auguri anche a lui, ma non ci sono libri all'orizzonte che lo riguardino, mentre domani è la volta di Ornella Vanoni. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi son serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai. Domani è un altro giorno, si vedrà. E di Ornella Vanoni è uscito Piccole storie di Ornella Vanoni, pubblicato da Giulio Perrone, 76 pagine, 10 euro. Questa è una serie di brevi riflessioni su alcuni momenti speciali, magari nella loro semplicità o su alcune persone che hanno illuminato la vita della Vanoni. Si parla qua anche della capacità della cantante di cogliere da piccoli fatti il senso della vita, che per la Vanoni, ci dice in Storia di un incontro, ha trovato il proprio segreto in Gesù Cristo. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Martedì invece è la volta di Gino Paoli, che certo avrete riconosciuto, di cui è uscito un colloquio con Lucio Palazzo, I semafori rossi non sono Dio, pubblicato da Rai Eri, 136 pagine, 15 euro. Questo invece è un vero racconto sulla trama, come la definisce l'autore, della vita del cantautore, anzi delle vite del cantautore, le 3-4 vite che Paoli descrive. Si parte da una vie bohémienne degli anni subito dopo l'essere andato via di di casa, poi gli anni in cui arriva il primo successo e i primi soldi, poi il trauma del gesto estremo compiuto nel 1963 e poi il buio, l'esilio cercato nella gestione di un locale e il ritorno, queste appunto le fasi della vita così riassunte dallo stesso Pauli. Una serie di vite che hanno radicalmente modificato, ci spiega il cantautore, il modo stesso di fare musica. La canzone, scrive, la maggior parte delle volte ha un senso commerciale, non un fine poetico, oggi ovviamente. La poesia interessa pochi, così come la cultura, ed i segni di questa mancanza, di questo vuoto, sono davanti agli occhi di tutti. Si parla qua naturalmente del drammatico tentativo di suicidio appunto del 1963, che così Gino Paoli spiega: il mio suicidio era un atto derivante dal fatto che pensavo che non ci fosse altro da vivere, che quello che ho vissuto si sarebbe ripetuto all'infinito. Per questo avevo bisogno allora di un razzo potente che mi portasse sul sole per provare un'altra volta caldo. E poi si parla degli amici, da De André a Tenco a Grillo, e in particolare quello che gli manca di più, e cioè Bruno Lauzi. Paoli di Lauzi ricorda in particolare la fede liberale che lo ghettizzò, scrive lui stesso, presso la sinistra dei Salotti, ma non ci sono solo i genovesi, ci sono anche Iannacci, Gaber e naturalmente una delle passioni della sua vita che fu proprio Ornella Vanoni, della quale Paoli scrive che Ornella è difficile da definire, una tigre aggressiva con l'anima di un boxer, sai quei cani che sembrano cattivissimi e poi alla fine si rivelano buoni? Di una timidezza mostruosa che non ha vinto per niente, la vedo sempre così, come una specie di cucciolo vestito da tigre, è una grande interprete, lei è come Brel o Edith Piaf, prende un pezzo e se è nella serata sbagliata ti puoi buttare dalla finestra, ma se lo imbrocca non c'è un'altra che può darti quella vibrazione. Moi je m'en fous, moi je m'en contrefou, la la la la la la la la. Questa era la voce invece di Brigitte Bardot, che fa 80 anni la prossima domenica, e su la Bardot è uscito il libro di Enrico Giacovelli, Brigitte Bardot, è pubblicato da Gremese, 156 pagine, 12,90 euro. Questo libro ci fa ripercorrere la vita di un'attrice sostanzialmente modesta, ci spiega l'autore, protagonista di film altrettanto modesti, che però diventò un autentico mito a partire dalla fine degli anni 50. L'autore ci ricorda per esempio un dato, che nel 1959 a Brigitte Bardot erano state già dedicate 1 milione di righe sui quotidiani di Francia e più di 2 milioni sui settimanali, mentre erano apparse quasi 30.000 sue fotografie. Qualcuno inoltre è riuscito a calcolare, non sapremo mai come, che il suo nome, sempre nel 1959, viene citato nel 47% delle conversazioni della gente. Ma allora, se era un'attrice modesta, protagonista di film modesti, perché tanto successo e perché soprattutto il mito Brigitte Bardot? Sentiamo come lo spiega l'autore. Dove sta il segreto del mito? Neanche dove voi adesso pensate. L'immortalità di Bibi fa sorridere oggi, a confronto con quella delle attrici di pochi anni dopo. Il suo erotismo risulta all'acqua di rose, innocente, quasi virginale, se si pensa che nel giugno 1954, 2 anni prima di Piace a troppi, l'anonima traduttrice Dominique Ory ha pubblicato sotto lo pseudonimo di Pauline Reage Histoire d'eau, che per molti anni in Francia non potrà nemmeno essere pubblicizzato sui giornali o nominato in televisione. Mentre Dio sudava 7 camicie per creare la donna, la timida Dominique Ory aveva già creato l'erotismo. Altro che Vadim. Eppure, nell'elencarne limiti e difetti, ecco individuato il segreto del successo di Bibi. Essere una donna qualunque, che si può incontrare per strada o sull'ascensore e che si può accompagnare con uomini qualunque. Bibi non è straordinariamente bella, non è straordinariamente sexy, non è per nulla sensuale, è sessuale. Una ragazza moderna che tutti possono permettersi di sognare, mentre non tutti potevano permettersi di sognare Marlene Dietrich o Greta Garbo o anche soltanto Martine Carol. Perfino i suoi abiti non hanno nulla di fatale o impossibile. Possono e devono essere indossati da chiunque. Per questo Bibi piace non soltanto agli uomini, e il non piacere soltanto agli uomini è la chiave di ogni grande mito femminile. E a questo punto... il confettino. Presento ai nostri piccoli lettori, soprattutto a quelli che hanno più di 7 anni, un personaggio, un nuovo personaggio che arriva dalla Germania. Lilli è il personaggio creato da Tania Stevner. La troviamo nel libro Lilli, vietato parlare agli elefanti, la nuova frontiera junior, 174 pagine, 14 euro, tradotto da Anna Patrucco Becchi e illustrato da Cristina Spanò. Lilli ha un rapporto magico e particolare con la natura che dovrà mettere alla prova per far curare un elefante dello zoo. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questo e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.